Eccoci qua dunque, Radio Onda Rossa 87.9 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Salutiamo anche 25 O'Clock, entrato orora negli studi, che andrà in onda dopo il sottoscritto intorno alle 22.30. Saluto Maya in Sardegna insieme a Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal, suoi progetti. Enrico Pozzoni in quel di Milano, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. A Roma abbiamo Gianluca Becuzzi e Maria, Lucia Cagliazza in quel di Udine come Lupsi. Un saluto anche a Naresh Ran, a Moschita de Miramar, Simona della Morte ad Harlem, Olanda. Jess Gallagher da Catania in Sicilia. E poi Like a Week, Alberto Clipper, anche loro valenti musicisti, Jean-Claude Berthaud in quel della Val d'Aosta. Giulia qui a Roma, Alessandra anche qui a Roma, Rosa La Vita del progetto omonimo. Questa sera invece iniziamo direttamente dall'India. Chi è stato presente nelle ultime puntate di prove tecniche di trasmissione sa che stiamo mandando questa compilation dal nome Indian Music Survey, Anthology of Exploratory Music from India, un manifesto dell'India più sotterranea e sperimentale, naturalmente poi contaminata con forti elementi etnici in molte delle sue tracce. Artefice dell'operazione, naturalmente, l'amico Raffaele Pezzella. Questa sera ci ascoltiamo Buddha Titia Chattopadhyay, che è anche chi il personaggio che ha aiutato Raffaele nella stesura di questa compilation. E di lui ci ascolteremo Dvani. Poi ci sarà Hemant Srikumar con Ajivika.

Questa puntata del 24 novembre l'abbiamo iniziata con un omaggio alla scena indiana da questa Anthology of Exploratory Music from India a cura della Nice Place Sounds Group Production di Raffaele Pezzella. La prima traccia di Bhutatiya Chattopadhyay, decisamente più ritualistica e spirituale, al confine con lo sciamanesimo, mentre la seconda, Hemant Sri Kumar, era decisamente più sperimentale, con questi avvolgenti labirinti elettronici tra glitches ed inquietudini ambient. Fatto sta che l'India è assolutamente una scoperta da fare e da godersi, e quindi vi invito a visitare la Nice Place Sounds Group profilo Bandcamp, dove si possono trovare questa ed altre interessanti compendi, compreso l'ultimo dedicato alla scena scandinava, che naturalmente presto ci ascolteremo. Saluto intanto Mariano in quel di Berlino. Lo sciamanesimo applicato alla musica e anche il conseguente fascino della tematica è un argomento che appassiona anche il nostro amico Gianluca Becuzzi, tematica centrale anche del suo ultimo lavoro dal nome Mana, un doppio CD sontuoso che esce per la Standa. Momenti di rarefazione di drone, ma anche con delle spizzature noise. Lo cominciamo a conoscere con Possessed e Persistence. un ritorno assai importante per quanto riguarda Gianluca Bicuzzi. Questo Mana, questo doppio CD, come ho già detto, la tematica dello sciamanesimo è una tematica portante di tanti lavori di Gianluca Bicuzzi, che peraltro ha alle spalle una carriera non indifferente. Lo ricordiamo tanti anni fa come fondatore dei Limbo, e lì ci muovevamo in ambito IBM Industrial. Poi il minimalismo Kinetics, l'avventura electro rock di Noise Trade Company, e molta molta carriera con il suo nome di battesimo, costellato da importanti incisioni in questi anni. Anche l'anno scorso ne ha fatte ben tre, In Between, Voices, normale anche remixato. Tra ambient, drone, chitarre indubbiamente munite di importanti pedali, la chitarra ha un ruolo assai centrale in questa ultima fatica di Gianluca Bicuzzi. Album che chiaramente ci andremo a gustare anche le prossime settimane. Sentite che potenza che sta salendo. Saluto intanto Others con Massimo Mascheroni e Marco Milanesio di Disordine. Rimaniamo in Italia, anche se poi l'etichetta che andrà a supportare questo progetto viene da Londra, è la Deft Records di Alessandra D'Alesio, anche lei emigrata in terra d'Albione, e il progetto in questione si chiama Stromboli, Stromboli come evidentemente il vulcano siciliano, almeno presumo, ma non vedo alternative. E attraverso la Deft Records esce sul profilo Bandcamp questa Exile, un progetto molto interessante che si muove tra IDM, anche qui con difetti digitali, e progressioni elettroniche che andremo a scoprire con la prima traccia dal nome Odd Scenario e la terza dal nome Substasis. Thank you. il disturbato sentiero elettronico intrapreso da Stromboli, questo progetto di Nico Pasquini, progetto bolognese che in questa circostanza si avvale della collaborazione della Deft Records di Londra di Alessandra D'Alesio. Percorsi elettronici intricati e disturbati con frequenze radio intercettate. Exile è il titolo di questo 5 tracce e ci siamo ascoltati Odd Scenario e Substasis. :21 Onda Rossa su www.ondarossa.info e per chi può in modulazione di frequenza 87.9. Ormai tutti sanno che ogni novembre di ogni anno si va ad omaggiare i Coil di John Balance e Peter Christofferson, accomunati dalla morte avvenuta proprio di questo mese, anche se in anni diversi, e quindi sono andato a ripescare del materiale d'archivio appartenente proprio alla collana Threshold Archives. Abbiamo qui Panic, che ricordiamo fu un famoso 12 pollici inserito pure nel primo lavoro del 1984, Horst Rotor Vator. Stasera abbiamo una versione diversa dal nome Alt Mix Number 2 Guitar e poi ci ascolteremo Teeny Birds e Circles of Mania. Molti minuti dedicati ai Coil di John Balance e Peter Christofferson. Cupo e psicotico scenario musicale, purtroppo interrotto dalla morte di John Balance nel novembre del 2004 e successivamente nel novembre del 2010 invece ci lasciò Peter Christofferson. Questa era una compilation dal nome Panic, con del materiale in parte inedito, in parte uscito su compilation. E questa sera infatti ho privilegiato tre brani inediti, una versione alternativa di Panic e poi appunto Teeny Birds Circle of Mania, una versione completamente diversa e stravolta rispetto a quella presente in Horse Rotor Vator. Vado a risalutare Gianluca Becuzzi, ricordo che domani, per chi volesse, ci sarà anche il podcast rintracciabile sia sul sito della radio e sia sul profilo Facebook Prove Tecniche di Trasmissione / Disorder. Torniamo in Italia, andiamo esattamente a Treviso, città abbastanza florida per quanto riguarda fenomeni musicali. Tra tutti anche questo Fontesla di Marco Giotto. Abbiamo tirato fuori il suo esordio ormai di 10 anni fa dal nome Mondo Parallel. Un riassunto di tematiche astratte, di glitch e di fomenti sperimentali che si vanno a chiudere con NRT e Self.